Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Universal Music Milano. Cuori stupidi è il nuovo album di un giovane artista con tantissimi fan. Ha iniziato ad amici come Mike Bird, poi il progetto Cinema Boy. Ora si presenta con il suo vero nome, Michele Merlo. Tutte quelle cose che sono successe sono quelle cose un po' da ragazzi, no? Le maschere, i nomi, l'inglese, la corazza, e insomma fa tutto parte di un immaginario di figaggine che poi si allontana dal contenuto vero che ti fa sentire cantante, cantautore delle tue canzoni. Quindi Michele Merlo sono io, che ho scritto le mie canzoni in italiano, quindi è il mio primo disco questo. Quanto è difficile far capire che Michele Merlo è un cantautore, e te lo chiedo per due aspetti. Uno, perché sei un ragazzo molto bello con una grande fan base anche femminile. Due, perché hai fatto un talent e quindi quella cosa lì per tanti è stata all'inizio quasi uno stigma. È molto difficile perché c'è un concatenarsi di meccanismi e realtà che non puoi controllare. Quindi l'unica arma che tu hai a disposizione è quella di dire la verità. E il talent, sì, c'è un preconcetto gigante sul talent. Non è sempre solamente male, anzi, spesso è un'occasione incredibilmente potente per emergere e ovvio che può stimolare una sorta di pregiudizio in coloro i quali, come me, al tempo andavano nei centri sociali a ascoltare la musica o il Morion a Venezia, i biliardi. Quindi immagino che il lato mainstream e il non mainstream ci sia ancora quella nostalgica aria di guerra, ma che ormai sta sempre più spegnendosi, no? E sono fiducioso nei prossimi anni di una bella birra insieme tra il mainstream e il non mainstream. Hai più sentito parlare di me, che sono stata anche in TV, e a te non te ne frega niente. Non ho più scritto nulla senza di te, perché non sono niente. Sempre in cerca di qualcuno che non sai chi è, in mezzo a tutta la gente a dire mille ti amo, anche se poi non è vero, e fare finta di niente. Se il tempo passa veloce ci fa perdere tutto, fare finta di niente. Cuori stupidi è la mia storia, che in qualche modo, in qualche parola, in qualche frase è anche la storia di tantissimi dei miei fan. Quindi oggi cerco di controllare sempre e spesso i messaggi che mi arrivano, e sto riscontrando veramente che le cose che ho scritto sono parte sia dell'immaginario della mia fanbase che anche del vissuto. Quindi sono contento di aver fatto toccando ferro. Quindi incontrare i fan quando ti incontrano dal vivo, quando cosa leggi nei loro occhi, che risposte vorrebbero avere da te? Perché io vedo che ci sono anche dei pezzi che hanno una certa carica positiva. Sì, spesso vogliono una mano tesa in aiuto, quella che vorrei io da Vasco Rossi, per esempio, quando ascolto le canzoni. Penso sempre, oltre all'importanza della fisicità, del contatto tra cantante e fan, che sia importante trasmettere un messaggio. Dato il potere delle canzoni, perché non sfruttarlo per dare una mano, anche un pensiero positivo a chi ne ha necessità, come me per esempio. Io vorrei essere aiutato, quindi di conseguenza aiuto. Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Michele Merlo. I prossimi appuntamenti con Radio Tube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.